Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, la notizia del giorno è il fallimento della Triestina, una società e una squadra che appartengono alla tradizione, se non alla storia del calcio italiano. La notizia dell'agenzia dice che la Triestina Calcio è fallita, che lo ha deciso il Tribunale Civile di Trieste accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica che aveva accertato debiti per oltre 6 milioni di euro. Dopodiché il presidente del Tribunale Civile di Trieste, Giovanni Sansone, ha spiegato che è stato dichiarato il fallimento della Triestina ed è stato disposto però l'esercizio provvisorio per la società. Ora la Triestina, ha spiegato il presidente, è nelle mani del curatore fallimentare che ha già svolto un ruolo analogo in passato in occasione di vicende che avevano riguardato Pallacanestro Trieste e che oggi stesso sarà al lavoro nella sede della Triestina. A questo curatore fallimentare spetterà il ruolo di gestire la società, i dipendenti, i giocatori che, vista la finestra di mercato che è ancora aperta fino al 31 di gennaio, potrebbero anche chiedere di essere ceduti o di rientrare dai prestiti. Comunque il fallimento della Triestina è in ogni caso una non è inedito, per carità, magari è l'inizio di una resurrezione dalle ceneri, è capitato a tante altre squadre, no? Anche che attualmente vanno per la maggiore, il Napoli innanzitutto, la Fiorentina, il Torino non è che vada per la maggiore, ma insomma sono tutte società fallite, e poi tramite il famoso e a parer mio un po' famigerato Lodo Petrucci, in ogni caso sono come dire risorte dalle loro stesse ceneri. Nel pomeriggio si gioca Chievo-Siena, stasera Napoli-Inter, domani Milan-Lazio, sono sfide secche che valgono per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, come quella di ieri sera a Torino che ha visto la Juventus disporre, direi proprio a piacimento, della Roma, nonostante il turnover, un discreto turnover attuato da Conte. Oggi si parla di calcio in senso stretto anche per festeggiare il compleanno di un amico come Giovanni Galeone. Auguri Gale! Grazie. Senti, sono 51, vero? Sì, più o meno. Beh, 51 è una buona età, cioè la cifra tonda. Qualcosa al doppio della cifra del giorno, 25, 25, 50. Un certo, bravo, bravissimo. Guarda, poi ma la cifra tonda era l'altro anno, quella che fa un po' impressione, sì, 51, sì. Però è che sì. Certo. Senti, con Giovanni, con te, facciamo il punto di metà stagione, il punto tecnico, alla fine del girone d'andata, per l'appunto. Tu ti eri esibito, come accade da diverse stagioni ormai, nei pronostici al buio, quelli più difficili di fine agosto, e adesso come regalo di compleanno cominciamo a fartene sentire subito uno. Senti questo, sei tu in agosto. Mi intriga il mio amico a Cesena, Marco Giampaolo a Cesena. Perché ha preso giocatori di tecnica, cerca di sviluppare un gioco molto tecnico. È stato spesso quest'anno a Barcellona, a seguire il Barcellona, le lamenti di Guardiola, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato. E lui è convinto di riuscire anche, non dico a trasportare il Barcellona a Cesena, per carità, però di avere una mentalità di quel genere lì, insomma. Ti è piaciuto come regalo di compleanno? Madonna. Per metterti subito a tuo agio. Forse viene ripresa, No, ma adesso è ripresa, infatti. Ma no, magari era solo, questa è una gag che ci si può permettere solo con gli amici, sia ben chiaro. Però è una gag che io ho. Dopo questo sono andato a rivedermi qualche ritaglio con pronostici di agostani, no? Di un po' tutti, compreso chi ti sta parlando. Insomma, ne ho lette di ogni colore ristrampalate. Io direi che invece adesso siamo a metà stagione, quindi parliamo di proiezioni da qui in avanti, ma che hanno ben altro spessore evidentemente, perché si basano su dati concreti. Allora, ho preparato una serie di domande. La prima, è rimasto favorito il Milan o è diventata a questo punto la Juventus? Io vedo ancora un po' favorito il Milan, però la grande, vera sorpresa del campionato è la Juve, e su questo non c'è dubbio. Ha comprato bene, ha preso ottimi giocatori e soprattutto ha un gioco e una mentalità, e lo si è visto anche ieri sera. Prima tu facevi notare che c'è stato un largo turnover, sì, però chi si è accorto, no, di Marrone, certo, di Zaccherini, o di Estigar Ribia, lì come si chiama cioè, questi qui vanno in campo, che giochi Vucinic e Matri, che giochi Estigar Ribia e Del Piero, o ieri ha giocato Borriello, Del Piero, eccetera. questi si comportano alla stessa maniera. Sì. A parte che corrono tutti, ma corrono bene, non corrono stupido via, corrono bene, fanno un pressing di squadra, non si affidano solo alle qualità del singolo che va a pressare, va a rubare palle, eccetera. Accorciano proprio di squadra, quasi a suggerire alla squadra avversaria un passaggio, e poi rubano e costruiscono azioni. Sono sbalordito da quanto ha fatto Conte, che ha fatto bene, ha disegnato veramente un'ottima squadra. Avevo visto qualcosa, visto che tu sei andato a estrapolare le vecchie cose, avevo visto qualcosa in agosto al trofeo Team, dove la Juventus non aveva vinto niente, però avevo notato dei movimenti, delle cose abbastanza interessanti da parte della Juventus. E pensa che ancora oggi la Juventus fa a meno di un paio di giocatori che non sono così scarsi come sembra, cioè tipo Krasic o come Elia. Certo. Eppure ti ripeto, sta facendo un gran campionato, però io, se guardavi i numeri, io vedo che la Juventus per esempio pareggia. Sì. Pareggia molto anche con squadre non di prima fascia, diciamo così, no? E probabilmente su questo forse il Milan è leggermente più favorito. Sì, perché il Milan magari perde. Il Milan ha perso 3 volte contro l'imbattibilità della Juve, però vincendo di più è a un punto solo, insomma. E ha perso il confronto diretto. Quindi questa è una bella riflessione. Pari nel confronto diretto, un punto in meno, 2 punti in meno alla Juve, 1 punto in più al Milan. Certo. Comunque tu hai detto, di Conte hai detto bene, sono sbalordito, e mi sembra un grande complimento. Io, il mio sbalordimento, poi adesso lo confronto con te, principale, che era la ragione dello scetticismo iniziale, tuo, ricordo bene, ma di tanta altra gente, me compreso, era la difesa, no? Era il disastro difensivo dell'anno scorso e praticamente la stessa difesa ripresentata con l'inserimento a destra di Lichtsteiner, che però sta facendo forse più l'ala che il terzino, o comunque fa anche quello. Questi hanno preso solo 12 gol e sono la miglior difesa del campionato. Credo che, se parliamo di sorpresa nella sorpresa, forse è questa la principale. Allora, la sorpresa nella sorpresa è la difesa. Hanno preso un ottimo giocatore che è questo Lichtsteiner. Hanno chiuso bene la metà campo, tutti rincorrono e hanno soprattutto, io penso, anche se Lichtsteiner fa il terzino ala, è molto bravo tatticamente, molto bravo tatticamente, sì, nelle chiusure. E questo permette a Chiellini di stare un pochino più sulla fascia sinistra e quindi di provocare un po' meno falli vicino all'area di rigore e cose di questo genere. Sì. Conte, a mio avviso, è stato molto bravo anche a intuire una cosa del genere e mettere Pirlo con due grandi cursori come Vidal e Marchisio. Vidal e Marchisio adesso metterà Marrone e Zaccherini, che ne so, insomma, certo, che mette adesso comunque ha dato veramente un'impronta a una squadra, cosa che mancava alla Juve da diversi anni. Sì. Non e poi Mina, insomma, la sua impronta ce l'ha, e quella lì è buona. Ed è definita. Bene, adesso stiamo per passare al Milan, poi toccherà all'Udinese. Andiamo un pochino in ordine di classifica, approfittando di questa tua disponibilità, così impari a compiere gli anni e a farti fare gli auguri in diretta. Brevissima notizia appena arrivata: Pazzini e Lucio non sono partiti per Napoli causa influenza, quindi non giocheranno stasera nella partita di Coppa Italia contro il Napoli. Torniamo a Giovanni Galeone, torniamo al Milan, che ti lasciava abbastanza scettico in avvio, poi si sono aggiunti tutti questi infortuni, perché il Milan ha gli stessi punti dello scorso anno, per carità, ma continua a lasciarti scettico, oppure, come hai detto all'inizio, continui a pensare che, insomma, qualcosina più della Juve potenzialmente ce l'abbia? Ma in difesa i giocatori più validi concedono molto poco, quando giocano soprattutto con Nesta e Thiago è difficile fare gol al Milan. E adesso il Milan ha avuto però moltissimi infortuni e quindi non ha in pratica un mediano destro, perché Nocerino è stato spostato a sinistra, giustamente a mio avviso, Gattuso è infortunato, Flamini è infortunato, Ambrosini gioca ma non volentierissimo in quella posizione lì, e quindi avrebbe bisogno di un centrocampista di destra. Adesso ha preso Merkel, però un ragazzino di 19 anni con poca esperienza. In avanti c'è questo Ibrahimovic, che è l'ira di Dio, insomma, ne combina di tutti i colori, e adesso, dato che abbiamo cominciato scherzando, ridendo, nei bar ho sentito qualche milanista augurarsi che l'infortunio di Pato sia più grave del previsto. Tanto per dire. Tanto per. Perché effettivamente quando giocano assieme Robinho e Ibrahim, un'altra roba. Un'altra roba. È molto vicino, si va anche a Robinho. Per cui capito. Il Milan potenzialmente è molto forte, certo. Sicuramente è molto forte. Se dovesse poi ancora prendere qualcuno adesso a gennaio, diventerebbe più forte. Quando dovrà vincere la Juventus, è vero che è una società abituata a vincere, è vero, però è molto tempo che non vince. E bisognerà vedere se il braccino del tennista verrà fuori, anche se non è il tennista scarso, per carità, no, però è certo. Sempre reduce da 2 settimi posti negli ultimi 3 anni. Certo. No, guarda, c'è un ascoltatore che sta scrivendo, si chiama Carmelo, scrive da Milano, dice: io sono felice del parole di Galeone, perché dato che l'altro anno aveva battezzato la Juve settima fin da agosto e arrivò esattamente settima, dato che adesso sta dicendo queste cose, io sono contento di sentirle. Senti, restiamo un attimo al bar. Al bar avrai magari anche sentito dire che quando Berlusconi non è al governo si occupa più direttamente del Milan. È stato questo forse già in stagione un piccolo problema in più o no? La scorsa settimana prima del derby è stata una cosa, non dico determinante in senso negativo, però sicuramente sì, non è stata una bella settimana. Adesso non so se il derby sia stato perso per questo, perché intanto il gol di Thiago Motta era arrivato dopo 4 minuti, sì. Era validissimo, per cui la partita si era messa subito bene per l'Inter. Però il Milan non l'ho visto così concentrato, così determinato, così pronto ad affrontare il derby come pensavo fosse. Ecco. Effettivamente certo. L'uscita del presidente del giovedì poi è stata un'uscita in prima persona, no? Mm-hmm. Ha detto, no, il coso è stato bloccato per mia iniziativa sia economica che tecnica. Fine della giostra. La domenica gioca Pato e il Milan perde. Perché è vero che Pato, dicono tutti, Pato è un fenomeno, ma lo dico anch'io che Pato è un fenomeno. Però il Pato fenomeno fa un gol in 2 partite, però quest'anno in 17 partite ne ha fatto 1, per cui o questo ragazzo matura definitivamente, ma credo che questo non sia un appunto che faccio io, lo fanno persone che hanno vinto tutta la vita, tipo Ancelotti, dice, sì. Quando fa un gol Pato e niente, dovrebbe farne 2 a partita, certo. Perché con le qualità che ha effettivamente dà molto meno di quello che potrebbe dare. E sai, per un allenatore questa è una cosa importante. E allora lì ho preso delle decisioni. Tu vedi Conte, per esempio, per tornare alla Juve, ha preso Krasic, che l'anno scorso ha fatto l'inizio di campionato strepitoso, e quando ha visto che Krasic non rendeva per quello che lui poteva dare, l'ha preso e lo mette tranquillamente in panchina. Certo. E la squadra dà. Mm-hmm. E soprattutto l'allenatore conquista credibilità presso nel famoso spogliatoio, l'ambiente, i giocatori, lo spogliatoio, eccetera. Certo. La presa di posizione dell'anno scorso di Allegri su Ronaldinho è stata, a mio avviso, determinante per la vittoria del campionato. Sicuro. Ma non per la questione tecnica del giocatore, per quanta credibilità ha acquisito. Abbia preso poi Max a prendere una decisione così impopolare. Certo. Vi ho detto che oggi si parlava di calcio e se ne parlava ad un certo livello. Senti, tu hai detto giustamente che la Juventus è la vera grande sorpresa di stagione, d'accordo. Io dico giustamente fino a un certo punto, nel senso che è l'altra squadra bianconera, secondo me, la vera sorpresa. Ancora di più, in che senso? Nel senso che è vero che l'altro anno ha fatto molto meglio della Juve, ma è vero che ha un saldo attivo d'estate di 50 milioni derivati da 3 giocatori ceduti e adesso è a 3 soli punti dalla Juve, che invece i 50 milioni abbondanti li ha spesi. Allora non posso che darti ragione, però tu devi convenire che io non ho detto che è una sorpresa, perché l'Udinese è una conferma, sì, una è vera. Conferma di tanti anni di lavoro di questo grandissimo patron, credimi, perché io ho lavorato anche con lui, certo. So cosa sia il patron, il proprietario, la proprietà dell'Udinese nella persona soprattutto del grande capo. Su questo non c'è dubbio, è uno che capisce di calcio, che ha le idee molto chiare, che è disponibile a tutte quelle che sono le novità, le cose eccetera. Hanno questo tipo di mentalità e riescono ogni anno a andare sul mercato vendendo dei giocatori e a sostituirli con della gente altrettanto valida che poi andranno di nuovo a vendere, eccetera. Se tu vedi, l'anno scorso ha venduto il miglior giocatore della difesa, Zapata, il miglior centrocampista, e il miglior attaccante Sanchez, che in prospettiva è ancora migliore di Totò, certo, che ha ormai 30 anni, 31, che ha, e Sanchez ne ha 22, certo, meno male gioca nel Barcellona. Ecco, nonostante questo, l'Udinese ripete il campionato dello scorso anno, quindi molto bravo Guidolini sicuramente, però conferma di una grandissima società, di una grande struttura societaria. Io mi ricordo che ti lasciava, allora adesso comincio ad accorpare perché il tempo passa, ti lasciava freddo il Napoli in avvio, sì, e mi pare che ci hai preso, non escludevi un ritorno al vertice dell'Inter nonostante all'epoca ci fosse ancora Gasperini con qualche equivoco, ecco, qui direi che ci hai abbastanza preso fino adesso, La Roma anche mi intrigava. Ti intrigava che la Roma, è vero, sì, è vero, ti intrigava che la Roma, ma secondo me per giocare a quella maniera lì ci vorrebbe una coppia centrale difensiva forse un pochino più sana. Oh, mi corregga se sbaglio. Non correggo perché non sbaglia. Fa conto che ieri sera è bastato che mancasse De Rossi, certo, perché la difesa, bravo, si muovesse tutto in un'altra maniera. Fino a quando tu hai un giocatore come De Rossi che indica cosa, dà suggerimenti alla difesa, movimenti, cose eccetera, la difesa ancora tiene. Se la lasci lì orfana, effettivamente è quasi inguardabile e non riesce a sviluppare il gioco che vorrebbe Luis Enrique. Però io vedo positivo il lavoro di questo tecnico. Certo, vedo molto positivo. L'Inter è forte, perché è forte, ha giocatori formidabili, può rientrare in gioco, anche se uno, facendo i conti, dice che nel girone di ritorno per vincere mettiamo 40-40-80, 41-40-81, dovrebbe fare 46 punti. Ora 46 punti sono in prospettiva 92, non ne ha mai fatti nessuno, neanche l'Inter di Mancini. Sono tanti, 46. È difficile, quindi è difficile. Sì, è vero che è lì a 5 punti, però le partite sono minori. E il Napoli mette sempre in evidenza la differenza che c'è tra le qualità da mezzocampo in su e la poca qualità dietro. C'è poca qualità dietro, perché delle volte quando vedi partite come quella di Siena, insomma, certo, sono veramente, non dico inguardabili, ma quasi. Senti, dietro il adesso non se ne abbiano male i novaresi, ma il Novara dà un po' l'idea di essere già andato mentalmente, ha vinto 40 gol sì, e non ne segna neanche tanti, esatto. Quindi sì, non so se abbia il peggior attacco, forse no, però la peggior difesa sicuramente, certo. Si vince poco, è difficile che si possa salvare. È stata una gran bella esperienza comunque il ritorno del Novara in Serie A, per carità, ma non c'è dubbio, bel ritorno, storicamente, tutto quello che si vuole da tutti, però, i punti di vista, però, ma è stato anche positivo secondo me che non abbiano fatto il passo più lungo della gamba. Quante società si sono rovinate per farsi un anno di A, magari retrocedendo ugualmente, no? E invece loro sono stati molto bravi, ha tenuto il loro passo, probabilmente dico, certo, sono destinati perlomeno a lottare fino alla fine per non retrocedere, certo, perlomeno questo è sicuro, perché certo, insomma la quart'ultima che dovrebbe essere Siena, Bologna, hanno 19 punti, quindi è dura. Difficile. In realtà il peggior attacco è proprio il Cesena con 13, adesso stavo guardando i numeri, però Gale, la domanda finale me la suggeriscono. 13, non lo so, adesso controlleremo. 15. Allora il Lecce 13. Ho letto male. La domanda finale me la suggeriscono alcuni ascoltatori che mi chiedono se non hai paura che la tua, non popolarità, ma la tua santità pescarese sia messa in pericolo da Zeman. No, mi vogliono ancora molto bene pescare. Continua. Mi vogliono molto bene, però sto facendo un gran campionato. Ha tre attaccanti, no, veramente a dire la verità ha 5 attaccanti molto bravi. E i movimenti ripetuti proprio in maniera ossessiva che fa fare agli attaccanti sono veramente una gran bella cosa da vedere. Corre molti pericoli in difesa e ti dico subito qual è il mio pensiero: se va in Serie A il Pescara ci va direttamente, sì. se dovesse andare ai playoff, ho paura che non ce la faccia. Perché in partite singole corre troppo pericoli. La difesa ancora, sai, il modulo Zeman, fuorigiochi a metà campo, esasperati, certo, eccetera, eccetera. Alla lunga d'estate si possono anche pagare. Beh, insomma, più chiaro di così, ma anche più ottimista di così, cioè nel senso che se ce la fa direttamente, ce la può fare direttamente, sta giocando il miglior calcio della B e... No, ce la può fare direttamente, questo è il discorso. Ce la può fare. Però io mi auguro che ce la faccia direttamente, perché dopo sarebbe più difficile. Dopo sarebbe più complicato. Detto dal patrono del calcio pescarese, insomma, mi sembra abbastanza lusinghiero, oltre che attendibile. Buon compleanno, Gale. Grazie. Questi bei 51 anni conservateli come si deve. Grazie a Giovanni Galeone, che adesso che abbiamo chiuso il collegamento c'era qualcuno in più, ma insomma quella di 51 della gag, insomma, per calarsene un po' quando cominciano ad essere davvero tanti, mi sembra il minimo. Grazie di cuore a Giovanni Galeone e grazie a tutti voi che avete mandato una quantità impressionante di messaggi, ma avremmo dovuto tenerli in collegamento per qualche ora per riuscire a evaderli tutti. Oggi calcio in senso direi strettamente tecnico, grazie al contributo di Giovanni Galeone. Domani calcio in senso strettamente finanziario, grazie al contributo di Marco Bellinazzo, ma soprattutto grazie alle notizie, ma prima ancora direi grazie alle notizie, o a causa delle notizie che arrivano dall'UEFA, da Nyon, dove i club europei sono riuniti, hanno già dato un primo dato, e poi domani appunto si parlerà di tutto questo, ma anche di ben altri risvolti. I club di massima divisione delle 53 federazioni dell'UEFA hanno perso nel 2010, ultimo bilancio disponibile, in totale 1,6 miliardi di euro, con un netto peggioramento sul 2009, quando le perdite si erano attestate a 1,2 miliardi, quindi 400 e passa milioni in più, quindi un rosso ampliato in maniera netta, il che comincia, come già si teme, più che sospettare si teme, comincia a mettere in dubbio, comunque a incrinare la fiducia nel fatto che tra tre anni si possa davvero arrivare a quel famoso o forse famigerato fair play finanziario. Ci sono molti ascoltatori in attesa, ci sono però anche alcuni contributi vocali da ascoltare. Allora, magari lasciamo stare Conte, visto che di Conte ha tessuto l'elogio e in che proporzioni Galeone. Io farei qualcosina di vigilia, sentirei qualcosina di vigilia legata a questo Napoli-Inter di stasera, con tutto rispetto per Chievo-Pisa, impegno pomeridiano. E allora, sentiamo sull'Inter Cannavaro. Al di là che è una partita contro una squadra che comunque è una storia importante nelle competizioni di Coppa, ci teniamo tutti a far bene e a passare questo turno. Le grandi squadre qui vengono a giocare, non vengono a fare il bunker, quindi è partita vera, non è partita a senso unico e episodio per gli avversari. La risposta di Ranieri sulla convinzione con cui l'Inter affronta questo impegno. Sì, è una sfida dentro e fuori, sarà una partita gagliarda tra due squadre che stanno in forma, una sfida che serve per andare avanti, per entrare in semifinale, ci teniamo alla Coppa Italia, c'è questa bellissima e importante sfida, e vinca il migliore. Poi c'è un'altra sfida stasera, oltre a quella di Coppa Italia, che è quella di tra l'ennesima, la miliardesima sfida tra Barcellona e Real, stavolta al Camp Nou, e la partita di ritorno di Copa del Rey. All'andata il Barça ha già vinto in trasferta sul campo del Bernabéu per 2-1, e stasera c'è questa rivincita che ha molti ma molti motivi di interesse. Più tardi sentiremo magari anche la vigilia dei due allenatori, in questo caso con un frammento di Guardiola in spagnolo, tra l'altro, e intanto sentiamo qualcuno di voi. Massimo Ferrara, buongiorno. Buongiorno, chiamavo per fare i miei auguri personali a Galeone, mi dispiace che sia già andato via, perché comunque, anche se a Pescara lo ricordano giustamente con affetto, volevo dire che anche da Ferrara mi ricordo di essermi divertito a vedere le partite quando allenavo la mia SPAL, che a oggi vive momenti drammatici anche noi, ahimè, per motivi societari, quindi volevo fare gli auguri e ringraziarlo per avermi regalato un po' di buon calcio, ecco tutto qua, la ringrazio Garanzini. In tempi diversi, grazie a lei invece. Beh, questa notizia non c'entra niente con lo sport, ma chissà perché mi si è collegata con il fallimento della Triestina. Il giorno del fallimento della Triestina sono caduti dei calcinacci nella chiesa di Don Camillo a Brescello, no? Perché stamattina questo terremoto che un po' tutti nel nord Italia abbiamo sentito, e magari insomma, qualche timore ci è anche attraversato in quei secondi. La parrocchia di Brescello, visto che Brescello è stato un po' l'epicentro, no? Nei dintorni di Reggio Emilia, era la parrocchia di Don Camillo, resa celebre dalla Penna Guareschi proprio negli anni in cui la Triestina, non dico impazzava, però insomma nel 47-48, l'anno dell'esordio di Nereo Rocco in panchina, si piazzò comunque seconda dietro al grande Torino, è rimasto un exploit abbastanza isolato, ma in tutti quegli anni, nei precedenti e anche nei successivi, la Triestina comunque era una buona squadra di Serie A. Vederla sparire per fallimento è indubbiamente un peccato. Marcello Milano, buongiorno. Buongiorno carissimo, è sempre un piacere comunicare con lei. Dica. Grazie di averci fatto ascoltare il Galeone. Proporrei di fermarlo solo quando è il compleanno, magari anche quando è l'onomastico, dai. Mi permetta la battuta. Senta, no, volevo dirle ieri così che sono rimasto emozionato, lei sa che io seguo il calcio, sono un grande fanatico, non tanto da Juventus-Roma, dove ha giocato secondo me solo una squadra, ma dagli ultimi minuti della quarta di finale di Coppa del Re del Mirandes contro l'Espagnol e della Carling Cup in Inghilterra. Secondo me quello è, non lo so, ti scatena qualcosa dentro, partite fino all'ultimo minuto, squadra di Serie C che va in semifinale, uno sta dietro da 4.000 posti, questo è il calcio, non so lei cosa ne pensa. E mi domando perché veramente sta Coppa Italia deve essere un torneo tra le migliori squadre d'Italia, favorite, che giocano in casa, perché un giorno non potremo mai vedere, non so, un Benevento Napoli in semifinale, un Ternana Milan? Ma guardi, io provo a rispondere così. La Coppa Italia purtroppo non ha mai trovato in Italia, da noi, una, se non in momenti rarissimi, ma brevi, caduchi, una formulazione che, una formula, insomma, una modalità che servisse a rilanciarla davvero e che servisse a farne un torneo alternativo di grande affezione, di grande fascino, anche come quello inglese, in parte come quello spagnolo, ma direi anche quello francese. Poi l'altra parte di risposta potrebbe essere questa, visto che comunque la gestione non è federale ma è della Lega Calcio, ma lei li ha visti i nostri dirigenti, i dirigenti di club? Li vede anche soltanto arrivare, io non dico li sente parlare o li sente progettare, ma lei ha idea di in che mani sia oggi il calcio italiano da un punto di vista gestionale, con un presidente di Lega tra l'altro che è dimissionario, non so se da un secolo, ma insomma comunque da un anno, certamente sì, eppure rimane in carica perché qualcuno lo vuole tenere in carica. Io non voglio entrare nel merito di chi ha torto o di chi ha ragione, ma se quello è se quella è la Lega, se è l'ente deputato a non solo gestire al meglio l'esistente, ma possibilmente migliorare le cose migliorabili, come sarebbe un dovere per la Coppa Italia, io credo che lentamente ci illudiamo. Leggevo ieri per esempio dell'ultima riunione, la notizia che più ha colpito è stata, per dire lo spessore, no, di iniziative e di proposte, la notizia che più ha colpito è stato il fatto che è stata multata l'auto di un per divieto di sosta all'auto che aveva numerosi contratti su, tra l'altro, di giocatori a bordo, di un dirigente di una società di A, non faccio un nome perché non ha nessuna importanza. Ovvio comunque che questo dirigente si sia lamentato per questa multa nonostante avesse parcheggiato in un posto per disabili. Questo da secondo me, per piccolissima che sia, anche se un'inezia, dà un pochino l'idea del tutto. Marco Caserta, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, soprattutto a lei, sono un suo ammiratore, lei è un vero fuoricasso del giornalismo. Veramente, no, io sono appena la giornata. Marco, le volevo dire, è assolutamente incredibile la questione che si è verificata, perché io sono qualche giorno volevo contattarla per chiederle, diciamo, se si poteva far intervenire il signor Galeone, essendo che lo ascolto sempre, mi sono imbattuto nelle volte in cui ha pronosticato la Juve al settimo posto, sia nel 2010, quando disse pure che io credevo che la Juve avesse acquistato, c'è un terzino buono come Motta, lui disse questo terzino, quando uno lo vede correre può sembrare forte, però quando deve difendere non sa da dove iniziare, purtroppo si è verificato. Quindi io, diciamo, volevo sapere se era ancora valida, diciamo, questa previsione per quest'anno, e poi oggi ho scoperto che praticamente si è sorpreso di tutto, e quindi mo può essere un poco più serena, anche se poi penso che poi alla fine speriamo che non andiamo a finire sempre al settimo posto, questa è la speranza, e la ringrazio e complimenti ancora. Grazie a lei, Marco. Grazie a lei. Dunque, allora vi dicevo, tra le altre cose, no? Per chi magari dopo Napoli-Inter o a metà di Napoli-Inter, come sarà il mio caso, insomma, ha voglia di tirare un pochino tardi stasera con un'altra partita di cartello, sentirei le rispettive vigilie di Mourinho e di Guardiola. Mourinho è sotto tiro a Madrid da parte della stampa locale e anche del pubblico. Poi è chiaro che se stasera, come sempre succede nel calcio, il Real dovesse vincere a Barcellona per più di 1-0, perché sennò passa ugualmente il Barça, e qualificarsi, insomma, credo che sarebbe, no? Tutto cambierebbe come sempre. Ma in ogni caso, sentiamo una breve vigilia di Mourinho, molto monosillabica. Non so. Non lo so. Tienes que preguntar a la gente, ¿no? ¿Eh? Yo no sé nada de eso. ¿Está a gusto en el Real Madrid? Yo no provoco planes. No respondo. No cambia mucho para mí. No voy a responder. No voy a comentar con vosotros. Pregunta a los futbolistas. No. No so, no respondo, no voglio rispondere. ¿Qué domanda es? Vabbè, insomma, è un'altra, no, delle sue straordinarie recite. Tra l'altro, nessuna sanzione da parte del giudice sportivo. Pepe può giocare stasera, vedremo se Mourinho lo schiererà. Solito colpo di classe di Pep Guardiola, che quando ha saputo la notizia ha detto: mi auguro che se Pepe giocherà il nostro pubblico riesca a far finta di niente, perché non è il caso di infierire su un giocatore anche se ha sbagliato. Ha detto qualcosa del genere, ma col suo solito aplomb e distacco. Abbiamo sentito Mourinho, anzi non abbiamo sentito Mourinho, no? Perché erano tutti monosillabi. Sentiamo Guardiola in uno spagnolo, anche se un mezzo catalano, che credo si possa capire, al massimo poi si traduce brevemente. Solo los dos ir a comer una noche. Seguro ya lo van a decir, seguro que tarde o temprano en nuestras vidas podrá darse. Seguramente cuando ya no estaremos en activo, ahora no tiene sentido, evidentemente, porque cada uno nos engaña, tenemos que engañarnos unos a otros. La domanda era se capiterà mai che una sera Guardiola si siede a tavola con Mourinho, e Guardiola, senza fare una piega, ha risposto: ma certamente sì, anzi con piacere, qualcosa del genere, ma a fine carriera, cioè immagino sarà più facile quando non faremo più gli allenatori. Tra l'altro la domanda era di un italiano, perché era di Paolo Condò della Gazzetta dello Sport, che tra l'altro ci tengo, mi fa molto piacere, oggi sarà molto amareggiato in quanto triestino di nascita, no? Avrà il cuore che sanguina per il fallimento della Triestina, però è anche il giudice italiano del pallone d'oro. È succeduto in questo incarico, in questo ruolo, a Roberto Beccantini, dopo che Roberto Beccantini è andato in pensione dalla stampa. Vabbè, dopo questo, no, questo, come dire, spogliatoio di colleghi illustri, sentirei che cosa ci propone Nicola Filippone, al di là del compleanno di Gale, di Giovanni Galeone, per il 25 gennaio. Sembra ieri. 25 gennaio 1995. Nel recupero della nona giornata, al Delle Alpi, va in scena il derby della Mole. La Juventus capolista cade a sorpresa per 3-2, nonostante un Vialli in grande forma, autore di una doppietta. Mattatore assoluto è Ruggero Rizzitelli, che realizza due gol e dà ad Anglomà l'assist di tacco per il 3-2 finale. Altro protagonista è il portiere Granata Pastine, che para a Ravanelli il rigore del possibile 3-3. Il Torino di Sonetti si ripeterà al ritorno, imponendosi per 2-1, con Rizzitelli nuovamente a segno con una doppietta. La doppia sconfitta nel derby sarà una delle poche ombre nella stagione dei bianconeri di Lippi, che conquisteranno, con 10 punti di distacco sulle seconde, uno scudetto che in casa Juventus mancava da 9 anni. Dunque, giornata di compleanni anche domani, perché oggi Galeone, ma il 26 gennaio c'è intanto Mourinho, compie gli anni romani, poi Gasperini e poi anche Delio Rossi. Sul fatto che a Delio Rossi sia il caso di dare un pochino di tempo, insomma, di non avere freddo, ieri si è espresso niente meno che Roberto Baggio. Ma credo che quando si cambia un allenatore, credo che bisogna dare il tempo che il suo lavoro dia dei frutti, insomma. Delio Rossi è qui da poco tempo e credo che sia giusto avere pazienza, dare il tempo di portare le sue idee a questa squadra. È qui da poco tempo, ha detto Baggio. L'intervista è stata realizzata a Coverciano, questo frammento soltanto di una intervista più lunga rilasciata a Coverciano, dove Baggio, oltre che occuparsi del settore tecnico, sta anche sui banchi di scuola per il corso master per allenatori di prima categoria. Rashid ha chiamato da Alessandria, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Complimenti per la trasmissione. Io sono un tifoso milanista. Ieri ho visto una cosa che mi ha fatto male nel cuore, che alla televisione, che Maxi Lopez sta parlando col suo procuratore, e poi ho visto un giocatore che è triste, veramente triste, e a me non mi è piaciuto queste cose. O il Milan va a prendere questo giocatore o lasciarlo andare. Non mi piace che lasciano in un albergo come un ostaggio che aspetta fino a quando. Io non lo so, vedi, lei cosa dice su queste... O prende Tevez, o prende Maxi Lopez. Avete parlato abbastanza su queste affari, ma non lo so come finisce queste cose. Ah, guardi, io credo proprio di averne parlato poco. Non mi sento chiamato in causa da questa vicenda. Non mi pare, in effetti, che sia... Lei ha colto un aspetto che indubbiamente non è di grande eleganza, però d'altra parte, sai, questi... Dipende da come uno si tratta, ma dipende anche sempre da come uno si lascia trattare, no? Il mondo va così, non soltanto nel calcio. Credo che chiunque potrebbe avere nei panni di Maxi Lopez, pur essendoci di mezzo una delle più grandi società del mondo, potrebbe anche avere un soprassalto di dignità e dire, come ha detto lei, insomma, prima di star qui ad aspettare che lor signori abbiano deciso cosa fare della mia vita, della mia carriera, io posso anche avere un soprassalto, no? Potrebbe essere una soluzione. Io sentirei anche il commento di ieri sera di Del Piero, però, perché non, al di là del gol bellissimo segnato, insomma, Del Piero ieri sera a tutti gli effetti ha giocato da rincalzo, no? da alternativa, come Giaccherini, come Marrone, come nel finale Quagliarella, eccetera. Galeone sottolineava prima con quanta disponibilità tutti questi giocatori e con quanta facilità si siano inseriti in un meccanismo che ormai è davvero molto collaudato, ed è sorprendente che lo sia in un solo girone di andata, però insomma, diciamo che questa qualifica continua a stare stretta, no? Se non altro per ragioni di passato a Del Piero. Sentiamo. Sì, sono felice indubbiamente per aver segnato così, per averlo fatto in una grande partita nostra, per averlo fatto in una vittoria e anche in un giorno speciale per tutto quello che è il mondo juventino, no? Mi preparerò per sabato per giocare, come ho fatto tutte le altre volte, poi aspetterò la formazione del mister. Abbiamo fatto una grande prestazione, soprattutto perché molti di noi hanno giocato veramente poco, quindi averla fatta con questo spirito di sacrificio, di squadra, secondo me è la cosa veramente da sottolineare. Quindi contro una grande squadra che è venuta qua a viso aperto a giocarsi la partita, quindi dobbiamo essere molto felici di questo. Proviamo a far andare in Champions chi vince la Coppa Italia e poi vediamo se rimane una coppetta. Non credo che sia la soluzione, perché comunque quando poi arrivi in finale o in semifinale, è chiaro che l'obiettivo c'è, anche soltanto limitato alla Coppa Italia in sé come è adesso. È prima che questa manifestazione andrebbe rilanciata, è prima che dovrebbe fare da volano sui campi minori, giocando la partita secca semmai sul campo della squadra debole d'estate, rinunciando a quelle ridicole amichevole in giro per il mondo e andando invece a giocare sui campi di provincia e quindi facendo un'opera di promozione, eccetera. Ma insomma, sono tutti discorsi fatti, rifatti visto che parlavano di Lega prima e di dirigenti di Lega, direi anche strafatti. Dunque, chiama anche Mourinho domani per fargli gli auguri, mi domanda Stefano da Udine. Guardi, ha quasi sempre il cellulare occupato, se non sempre proprio, ed è un grande peccato perché Lei si può immaginare la felicità di poter conversare con Mourinho. Cosa sentiamo ancora? Sentirei quel brevissimo frammento di Luis Enrique, che ieri sera ha avuto una reazione non scomposta, perché è educatissimo, ma insomma sorprendente a una domanda di un inviato Rai. Cosa è stato? Un problema mentale, un problema psicologico? Come problema psicologico? Effettivamente quella A era un po' forzatello, però io direi che non è, intanto non è mancanza di rispetto, e poi ci sono anche delle domande, ragazzi, a cui trovare la risposta d'amblè semplicissimo non è. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanide in redazione, ci risentiamo domani. Arancia Rosaria, la salute vien mangiando e bevendo. Aranciarosaria.it vi ha presentato A Tempo di Sport.